Allo suona la gran cascia, viva lo popolo a bascia. Allo suona retta a Morriel, sorre sorte li puvariel. Allo suona le campane, viva viva li pupulana. Allo suona le violine, morte alli giacobine. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, vi vorrei con la famiglia. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, vi vorrei con la famiglia. A Sant'Erem tanto forte l'hanno fatto con Marigot, ste cornute sprevognate l'hanno misa mitri in capo. Mai sta chi t'ha traruto, chi sto stomaco chi ha avuto, e signor cavaliere le facevano prigionie. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consiglio, vi vorrei con la famiglia. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consiglio, vi vorrei con la famiglia. Facettero mazza tanto, sono arrivate le francese, autotasse ci hanno mise, libertà e carità, gli arruba a te, tu arruba a me. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, ti vorrei con la famiglia. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, ti vorrei con la famiglia. Sono arrivato, c'hanno buona carosata. E voilà, e voilà, capici in culo la libertà. A due Newton e Leonora che ballamo un coppo teatro. Ma ballamo mezzo mercato insieme con Master Tunato. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, vi vorrei con la famiglia. Sona, sona, sona carmagnola, sona li consigli, vi vorrei. E chiudo Eleonora che balla un coppo di arma, balla a mezzo mercato insieme con broccolo e rap. È fernuta l'uguaglianza, è fernuta libertà, per voi sotto l'una banca, signori, a tua cucca. Da prego.